Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come sta la Silvia? Silvia, non la Silvia. Mamma, fortunatamente siamo a Roma, non a Milano. La Silvia, il Giorgio, il Pannella, il Giovanni. Cacare, non cagare. No, non sono parolacce, questo è il linguaggio di noi giovani. Noi giovani parliamo così. Ma quanto sei scemo. Questi sono i risultati di un'educazione repressiva. Pensa a cosa saresti diventato tu se avessi ricevuto un'educazione più moderna. Scusate, vado a fare la telefonata. Scusa, amore. Devo dire che Cebombo ha pallidamente segnato un'ancor più pallida generazione. Mandare questa reliquia di un passato prossimo mette soltanto tenerezza. Quanto eravamo realmente, sinceramente, lontano da un concreto conflitto generazionale. Cosa è diventata la generazione dei post-morettiani rispetto ai loro genitori, se non una totale e concreta assimilazione? Questa mattina vorrei parlare invece di qualcosa di molto concreto che appartiene all'esperienza di chiunque, se ha avuto consapevolezza di avere una crescita. E questo è riassumibile in un termine: scazzi. Cosa sono gli scazzi? Beh, gli scazzi in realtà sono i contrasti, i conflitti, ma se applicato all'equazione padre-figlio, gli scazzi sono esattamente una sorta di simbolico incrociar di spade. La radice del termine scazzi corrisponde appunto a una sorta di contrasto dato da una ipotetica imposizione del proprio controllo maschile sulla realtà. Perché il padre si scazza col figlio? Perché? Perché cresce e non ci può essere posto per due cazzi, e quindi bisogna scazzarsi. Tra lo scazzo fra padre e figlio nasce la reale e concreta dialettica che permette a una persona di crescere. Beh, la prima volta che sento riassumere questo a volte mieloso, a volte trito, a volte scontato, a volte superfluo, a volte inutile, a volte non globalmente elaborato conflitto fra padre e figlio nel termine scazzi. È un libro che è uscito questa mattina, proprio lo colgo caldo, è un libro che racconta la storia di un banale conflitto fra padre e figlio, banale perché è sano che ciò accada, ma non banale perché viene raccontato anche dal figlio. Di solito sono sempre i padri che raccontano i loro problemi con i figli. Ultimamente c'è un grande filone letterario di padri e figli in cui, ahimè, sono anch'io in parte introdotto, incluso nell'elenco di tutti i libri, da l'orrido Michele Serra al Vittorino Andreoli che abbiamo avuto ospite, a un'infinità di altri padri con figli problematici. Oggi va molto che i padri parlino dei loro figli. I padri osservano i figli come se fossero ormai dei cricetini in gabbia, con quella sorta di senso di finto pietismo ma ben intriso di complesso di Urano. Il padre guarda il figlio perché in realtà si duole del fatto che il figlio gli debba sopravvivere. Il padre guarda il figlio perché il figlio prenderà il suo posto. Il padre guarda il figlio con un pizzico di invidia perché il figlio, si spera, sarà migliore di lui, conquisterà quello che lui non ha conquistato, avrà gli spazi che lui non ha avuto, e quindi il padre è diviso e lacerato in un tempo in cui i padri hanno apparentemente la stessa età, gli stessi gusti, gli stessi vestiti, le stesse tendenze, le stesse fidanzate dei figli, avrà comunque un forte concorrente nella vita. Beh, scazzi è il libro che ha scritto Nicola Neri assieme al padre Michele Neri, che questa mattina esce per Mondadori Strade Blu. Questa mattina avremo per la prima volta un figlio che ci racconta come ha, non dico elaborato, ma raccontato il conflitto col padre, lo scazzo col padre, visto che spesso abbiamo avuto soltanto padre, un'occasione unica per chi ci può chiamare chiamando l'800240024, e la domanda è molto semplice: come siete usciti vivi dallo scazzo con vostro figlio, o se vi va, come vi siete scazzati con vostro padre, e da questo avete capito qual è la formula essenziale per affrontare la vita da soli? 800240024. Di fatto ho l'impressione che ci sia troppo digionismo da parte delle persone mature, trentenni, quarantenni, che si avvicinano troppo intellettualmente tra PlayStation e baggianate varie ai loro bambini, e perdono di autorevolezza a volte nel momento in cui si verifica la crisi, nel momento in cui il giovane, il bambino cerca una direttiva. A volte ci sono contatti tra quarantenni mentali e ragazzini di 8, 10, 12 anni, forse c'è una non voglia di prendersi responsabilità. I nostri genitori ci sembravano vecchi nelle foto quando avevano la nostra stessa età, ma probabilmente c'era ancora una vicinanza tra un mondo maturo e le proprie responsabilità e quello dei bambini che venivano aiutati a crescere. Ci troveremo forse presto. Questo è un nostro ascoltatore, visto l'argomento è stato da noi spesso toccato, che parla di quello secondo lui perché c'è una diversità nel rapporto padre-figlio. Nel caso del rapporto fra Michele Neri e Nicola Neri, Michele Neri è un fotografo, è un creativo, un giornalista, un artista, è una notissima stirpe di persone che hanno a che fare comunque con la rappresentazione del reale. E visti in una foto assomigliano praticamente a due fratelli, e quindi forse la prima domanda che faccio a Nicola Neri, buongiorno Nicola. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, vedi, già il fatto che mi dai del lei significa che sei un bravo ragazzo e ben educato. Normalmente uno si immagina che l'adolescente eterno, poi tu hai 21 anni, quanti anni hai? 21 anni, ecco. Esce oggi un libro in cui tu racconti il tuo cammino dai 16 anni a oggi praticamente, con tuo padre accanto. Vedo le foto, tuo padre sembra tuo fratello. È un grosso dramma oggi avere un padre che assomiglia a un fratello? No, non è un grosso dramma, diciamo, però è un problema. Una scoperta ogni giorno, è un confronto ogni giorno, è uno scaccio ogni giorno, appunto. Perché non ci si trova su determinati argomenti, perché proprio è un confronto proprio naturale. Ecco, cerca di farmi capire, perché sai, ho anch'io abbastanza un problema simile a quello che può aver avuto tuo padre, anche se mio figlio è più giovane. Ti rendi conto che rispetto a un paio di generazioni precedenti alla tua, il padre era qualcosa di radicalmente diverso da noi. Innanzitutto vestiva diversamente, poi aveva sempre pensieri, poi aveva fatto la guerra, aveva un sacco di altre esperienze. I padri della tua generazione sono padri che leggono i tuoi stessi fumetti, giocano con la tua stessa PlayStation, occhieggiano più o meno personaggi eroticamente appetibili della tua stessa generazione. Come si fa a scazzare con persone che sembrano dei nostri coetanei? Certo, perché diciamo che un padre che non ha la parola magica, non ha appunto la soluzione, e il figlio se ne accorge subito, ovviamente, perché anche il figlio, ovviamente, io in questo caso, è in difficoltà, come tutti, magari anche di più. Quindi è necessario trovare una nuova chiave, diciamo, un nuovo percorso che passa proprio dallo scontro quotidiano, da magari anche passioni in comune e odi in comune. Qual è il momento di vero, maggiore, profondo, radicale scazzo con tuo padre, al di là di quelli che poi fanno parte della tenera letteratura, del racconto? Beh, è proprio quello su come affrontare il futuro, su come affrontare questo futuro che, diciamo, è più grigio comunque, è più da ricercare proprio dall'adolescente diretto, che non può essere appunto dato dal padre. Il padre se ne accorge di questo. Andiamo sul piano concreto. Il libro inizia quando tu hai 16 anni, inizia con una espediente da film. Tu hai avuto un incidente col motorino, tuo padre in apprensione che sarà fatto mio figlio col motorino, che è una cosa che accade abbastanza semplicemente. Se il figlio ne esce vivo, poi alla fine serve soltanto magari per alimentare successive prese di posizione repressive da parte del padre. Ecco, quando è che veramente hai pensato, io con mio padre devo tagliare o lo devo uccidere, simbolicamente naturalmente? Un episodio concreto. Un episodio concreto? Sì. Beh, proprio quando anche all'inizio, diciamo, a 13 anni, quando mi rendevo proprio conto che non poteva essere mio padre, che non poteva aiutarmi in niente. Che sembrava un ragazzino, ti sembrava? Esatto, mi sembrava più che altro proprio qualcuno che non potesse aiutarmi, che dovesse proprio tirare fuori da me. Quindi già a 13 anni tu vedevi una sorta di impossibilità di riconoscere in quella persona simpatica che avevi vicino un padre. Esatto, cioè più che altro una guida. Poi magari io ero anche un pochino maturo, nel senso, cioè più a 13 anni che magari anche a 16 anni, io per le storie che ho avuto, pensavo di più, diciamo, dopo invece a 16 anni è stato più l'allontanamento da tutto. Ecco, tu cosa hai fatto di drastico e pericoloso per prendere le distanze da questo bambino che si spacciava per tuo padre? Cioè io parlo in questi termini perché tuo padre non è presente, oggi voglio far parlare solo il figlio, sennò è troppo facile. Così ti senti libero di dire quello che vuoi, quello che hai scritto nel libro, quello che non hai avuto il coraggio di scrivere. Allora, io, diciamo, quello che ho fatto è stato innanzitutto capire che questa era la realtà di tutti in realtà, che quindi io soltanto in una novità per me, forse sono soltanto più avanti degli altri. E poi diciamo mi sono dato un po' le regole da solo, ed è stato poi in realtà questo che mi ha creato più problemi riguardo a scuola, riguardo a... Fammi un esempio, a scuola qual era il tuo problema? Ma allora diciamo inizialmente che ero partito molto carico, molto motivato, poi successivamente diciamo seguito appunto di determinate delusioni, di fatto di non essermi ritrovato. Ma dimmi in parole, cerca di capire in parole concrete. Tu avevi degli obiettivi di tipo scolastico che non hai avuto voglia di raggiungere? Qual era il problema? O se avevano, su te c'erano grandi aspettative? Tu vieni da una famiglia importante, inutile negarlo. Quindi su di te probabilmente certo. C'erano delle aspettative. E tu non ti andava subito di essere all'altezza di queste? Ma all'inizio in realtà sì. Cioè all'inizio, quando avevo 14 anni, quando sono partito col liceo, volevo fare. Poi mi sono scontrato a muso duro con la realtà scolastica, con cui non mi sono ritrovato. Per vari motivi. Qual è un motivo? Ma diciamo la follia che può essere per certi professori, di nel senso pensare che un ragazzo venga motivato dal dirgli che soltanto uno su 10 ce la fa. Ah, quindi il classico conflitto. E quindi sei andato in giro per il mondo, per l'Europa, hai cominciato a viaggiare. Esatto, sì, diciamo, ma più che altro proprio mi sono allontanato da tutto e da tutto e mi sono buttato in quella seconda famiglia che è quella degli amici. Che è poi la vera famiglia dell'adolescente. E te li sei mantenuti questi amici? Sì, li ho mantenuti. Fermo un attimo, sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Candidamente e coraggiosamente Nicola Neri ha cominciato a dire qualcosa che raramente dice alla radio un essere umano. Dice: io riconoscevo il mio padre, una persona simpatica, ma non vedevo in lui quella sorta di sacralità paterna che è sempre stata la causa di tutte le angosce di noi più anziani. Stefano. Sì, buongiorno. Sei d'accordo con Nicola Neri? Molto d'accordo. Io quanti anni hai? 42 anni e sono della generazione degli anni 80. Quindi ma se è lunga questa coda però di padri bambini, chissà quando comincia? Mi sa che inizia da lì, perché io speravo di avere un padre autoritario che avesse fatto una guerra o comunque... Ma porco diavolo, a me mi dava le cinghiate sul culo con la cintura e le ricordo come un'angoscia. E voi speravate di avere un padre autoritario? Le spiego il motivo, perché... diciamo che quando iniziai poi le superiori, che non volevo fare quello che mi era stato detto, fai quell'indirizzo lì che vedrai, troverai lavoro, e cambiai poi indirizzo dopo 2 anni, quindi adesso sono un infermiere, e all'età di 18 anni iniziai a lavorare in ospedale e un bel giorno sbarcato mio padre in reparto perché era depresso, perché ha incominciato a raccontarmi la sua vita privata. Che la cosa peggiore, un padre che si confida col figlio, si uccide. Cioè, la cosa peggiore, perché poi a 17-18 anni uno vuole farsi la sua vita e quindi lo scazzo... Ti sei dovuto sopportare sto bambino malato vicino che ti raccontava, piangendo, ti raccontava quanto fosse fratello. Le sue cazzate che faceva, tra l'altro mio padre è morto nel 2008... E ha continuato a reiterare queste sue... Cioè a far cazzate anche dopo morto? No, com'è possibile? No, nel senso a reiterare queste cose fino a quando è morto, quindi... Quindi prima regola, se volete essere padri, non mostrate mai debolezze ai vostri figli. Marco? Sì, buongiorno. Sì. Io sono un padre che gli amici dicono autoritario. Ho 61 anno, mia figlia ne ha quasi 31. E devo dire che non ho mai avuto un problema io con mio padre e penso mio figlio con me. Grazie, quando c'è incombe... Vorrei chiarire perché la parola autoritario è complessa. Allora, fermo un attimo, devo dare le informazioni del traffico. Rifletti un attimo cosa sia la parola autoritario, poi vediamo se è giusta la mia teoria che quando incombe l'ombra del bastone è difficile avere contrasti almeno apparenti e diretti. Melog. Cronache meridiane. Già, la promessa di dar fuoco alla casa, immagino. Ma con una candela non ci riuscirai mai, tesoro mio. Tieni, vuoi l'accendino? Basta, non essere ridicolo! Fino a quando sarò io a nutrirti e ad alloggiarti, farai quel che voglio io. O non c'è che una soluzione, il riformatorio. Non sai cos'è un riformatorio? Ebbene, lo imparerai a tue spese. Li filerai dritto, vedrai. Questi erano i 400 colpi di Truffaut. Marco si riconosce in questo padre autoritario o intende altra cosa quando dice che era un padre autoritario? intendo altre cose. Tipo? Intendo autoritario nei principi. Si decide di studiare, la famiglia dà tutte le possibilità, ma il figliolo studia, il ragazzo studia, non perde il suo tempo. Se si dice faccio il mio dovere, voglio andare a vivere per conto mio perché ho un'età e questo la famiglia l'aiuta. È sui principi che bisogna essere autoritari. Ho capito. Fermiamoci, è una cosa noiosissima. Sui principi, sono sempre cose astratte. Nicola Neri, ricordo autore, insieme al padre Michele Neri, Scazzi, libro che esce oggi per Mondadori, Strade Blu. Ecco, ti ho dato una piccola idea di come la veda la gente, il rapporto fra padre e figlio. Questo discorso del padre autoritario, tu non l'hai mai sentito? È qualcosa che non fa parte della tua esperienza? No, non fa direttamente parte della mia esperienza, sicuramente, cioè ho avuto un'esperienza con amici, però io volevo dire che riguardo a questo è un grande rischio fare il padre autoritario sui principi, perché comunque non si sa che adolescente sia davanti, perché non è più nel passato che c'è un totale controllo sul figlio, quindi a volte il confronto, anzi quasi sempre, a volte anche aprirsi comunque col figlio, è magari l'unica chance per davvero riuscire ad aiutarlo, cioè dipende dall'adolescente. Anche poi questi principi è sempre una cosa astratta, tradotti nel concreto cos'è? Tu nel libro parli di esperienze abbastanza condivisibili, sesso, droga e rock and roll, fino a che punto tuo padre in questo ha mantenuto il timone sui principi o diciamo ha capito quelle che erano i percorsi fra virgolette trasgressivi di un adolescente oggi? Beh, se all'inizio magari ci sono stati meno palesti, quindi magari sì, magari c'è stato più facile raggiungere queste esperienze, però è stato il confronto con lui a tirarmene magari fuori e al fatto di riuscire a ragionarci sopra di esse, non di vederli come dei mostri lontani da cui esserne troppo attratto, ma bensì da uscirne fuori anche da determinati comportamenti lesivi che possono essere poi comuni di tutti. Sì, bacio, sai, sei ancora vivo, parli qua, quindi diciamo le vere esperienze, terrificanti sono quelle che lasciano segni profondi. Poi il fatto che tu abbia scritto un libro assieme a tuo padre, che mi sembra un grande atto di alleanza alla fine, no? Certo. Sentiamo Riccardo. Riccardo. Buongiorno, salve, io vengo da un'esperienza, sono padre di tre figli, mettiamola così adesso. Bontà tua. Mio padre non era assolutamente un mio amico, era una persona con cui riuscivo a confrontarmici e io non ripropongo in famiglia il padre amico, sono per la teoria del sì sì e no no. Poi sono molto aperto al parlare, al confrontarmi con i miei figli, anche perché adesso ho iniziato ad assaggiare quella che è l'adolescenza di mia figlia undicenne. Vabbè, ancora hai voglia campare. Sì. La strada è lunga. Sentiamo Pino. Allora, io volevo. Pochi figli parlano. Per fortuna abbiamo Nicola Neri studio, perché vedo che tutti parlano volentieri dei propri figli, ma nessuno parla dei propri genitori. Pino, parla di tuo padre. Allora, io volevo intervenire a riguardo che padre che è stato molto autoritario, no? Però questo suo modo di fare mi ha tenuto lontano dai guai. Io a 51 anni ho smesso 2 anni di fumare, però fino a 49 anni ho fumato, non ho mai fumato davanti a lui, fargli un esempio. Cioè, fino a che età, scusa, fammi capire? Io ho fumato fino a 49 anni, ma mi è successo un... Cioè tu a 49 anni ancora ti dovevi nascondere a tuo padre per fumare? Sì, mi nascondevo di fumare. Papà, vado in bagno e fumavi con la finestra aperta a 49 anni? No, assolutamente, cioè non neanche in bagno. Vabbè, ma ti rendi conto, è atroce questa cosa, è una dipendenza... Però questa cosa qui, guarda, io ho girato con le persone più pazzesche di questo mondo, tossicodipendenza, però io sono stato lontano dai guai. Lontano dai guai vicino a tuo padre, scusa, non ti succedeva nulla se c'era il vecchio che controllava, da solo poi potevi fare qualunque cosa, che senso ha? No, ti spiego, io non ho fatto nulla, io ho frequentato, non so, purtroppo gente, ero giovane, disgraziati di tutti i tipi, però io non ho mai fatto nulla. Hai annusato la scaturigine di ogni perversione, ma non ci sei mai entrato dentro, vabbè, ognuno fa le sue scelte. Italo c'è, padre con figli molto grande. Italo c'è? Sono io, dimmi Italo allora. Devo dire che è meglio essere autorevoli che autoritari, se è possibile. Sì, vabbè, questa è una vecchia cosa, che vuol dire? Cambia niente. Però no, vuol dire che il padre autoritario non serve un tubo, neanche il termine eccessivo, altrimenti poi ci si trovano dei figli straiati come quelli che sono stati ben caratterizzati dal libro di Michele Serra, tutto lì. Vabbè, se uno schiama Michele Serra può scrivere quello che vuole, naturalmente. I figli sdraiati avranno sempre qualcuno che li riprende e li tira su, se sono figli di Michele Serra. Ma i figli sdraiati che non hanno un'autorevolezza di generazione stanno un po' peggio. Italo, finito, se ritorno con Nicola Neri. Allora, Nicola Neri, vediamo di arrivare a un punto. Hai sentito che alla fine non esiste una formula di soluzione, ma tu ti sei posto il problema di come ti comporterai con i tuoi figli, perché il modello passato sembrava un modello sorpassato, ma ne hai parlato con nostalgia. Il modello che tu hai conosciuto bene o male ti ha permesso una frastagliata esperienza di una lunga adolescenza che va dai 16 a 21 anni, ancora forse continuerà ancora un po', poi alla fine hai avuto un punto di riconciliazione. C'è una formula di novità rispetto a quello che tu metterai in pratica con i tuoi figli? Beh, se ti andrà di averne, è mica un obbligo. Vabbè, certo. No, il fatto è di l'unica possibilità è il confronto, è l'aprirsi. Cioè, io penso che sicuramente un padre che si confida totalmente col figlio possa creargli degli scompensi. Però non c'è alternativa, non c'è alternativa. Bene, Nicola Neri, grazie, la sigla ci porta via. Scazzi, Mondadori, esce oggi, leggetevelo.